Grazie ragazzi. Il caprigno è nell'aria e vi sorveglia. Attenti al caprigno morde. Quello che ho. Quello che ho è un sole che abbaglia senza scaldare quello che sono amico io. Non ti può dimenticare, guardi vagamente, non vedi al futuro. Oggi che c'è una nuova aria, vento, fuori da gioia, cercando qualcosa di peggio. Forse è un passaggio da tutti. Quello che ho è un sole che abbaglia senza scaldare quello che sono. E forse il tempo che non verrà mai. Forse siamo nei guai. Guardi vagamente,